Ma ora in onda Caffè e Paglia. Squadra grande, squadra mia, la domenica mi tieni compagnia. Sei lo sfogo agli amarese, che bellezza quando primi e vai in gol. Squadra grande, squadra mia, risvegliare sai la mia fantasia. Mentre giochi si scatena un'emozione, trovati a tutti, bentrovati alla nuova puntata di Caffè Paglia. Buon anno, perché è la prima puntata dell'anno. Un saluto da Mingo da questa parte del vetro, nel salotto un po' vuoto, desolato in questo momento, ma che si riempirà. Ringraziamo il regista che non manca mai e può anche oggi raccontarci qualcosa, perché ha visto delle cose importanti ieri sera. Stiamo parlando di calcio, ovviamente, programma sportivo che vi racconterà un po' quello che è accaduto nel fine settimana. Tra l'altro salutiamo quelli che potrebbero essere i nuovi ascoltatori di Radio Città Fucico in alcune zone in cui prima non trasmettevamo, ovvero Lombardia, cioè Como, proprio lì dove abbiamo giocato, e anche la Toscana potrebbe essere, potremmo trovare. Salutiamo ovviamente chi ci ascolta per la prima volta. Direi che in assenza dei miei co-conduttori lancerei intanto il numero di messaggi 333 180 94 94, se volete commentare con noi gli eventi sportivi della settimana, e poi ci ascoltiamo una canzoncina e dopo ci buttiamo dentro, sperando di riempire questo salotto un po' vuoto. Per fortuna il nostro regista ci viene in soccorso. Caffè Paglia si riparte. E allora finalmente possiamo iniziare la trasmissione in modo, insomma, un po' più insomma, come ci ricordavamo noi la trasmissione precedente. È un nuovo anno, però alcuni problemi sono gli stessi dell'anno precedente, non mi sembra che sia cambiato molto, almeno dall'aspetto del traffico. Problemi di traffico lo vuole dire anche il nostro Simone, che è arrivato qui con me. Ciao Simone. Raga, vi giuro, ciao, giuro che c'è anche Fio, sta provando a parcheggiare. Okay, non no. Avete capito il bordello di stamattina in strada. Bene, questo è molto positivo, tutto questo è molto positivo, ma noi ci buttiamo dentro alla trasmissione. È un po' che manchiamo e qui le situazioni sono un po' cambiate anche, no? Rispetto a quello che ci raccontavamo nel fine anno. Partiamo dalla classifica. La classifica del Bologna in questo momento non è delle più rose, siamo al nono posto. Mi viene da dire, abbiamo fatto bene a parlare di scudetto quando c'era la possibilità, c'era solo quello spazio lì, e quindi abbiamo fatto bene a toglierci il dente dello scudetto proprio in quei due giorni. Però ovviamente questa trasmissione è una trasmissione che, oltre al già citato Simone che vi ha raggiunto, ha anche una stella della trasmissione che ogni tanto arriva. Lascialo stare, passato gli ultimi 10 minuti d'inferno. Dopo uscito dall'inferno, appena uscito dall'inferno, la stella della trasmissione. Buongiorno, un 5 alto a quegli sportivoni dei nostri ascoltatori, un bacio con lo schiocco a quelle meraviglie delle nostre ascoltatrici, un appello a tutti, regalate un abbonamento dell'autobus ai vostri amici e familiari sopra i 60 anni. Può essere un'idea, vedo che anche il regista cioè, addirittura applaude. Voi con meno di 300 euro non sapete quanti problemi vi togliete dalla vita. E anche a noi. Io sono vicino, fra un po' tocca anche a me. Ancora per un po' posso te lo regalo girare. Io, te lo regalo. È il mio personale. Ancora personale. Per un po' posso girare. Dicevamo, ci siamo già buttati dentro alla puntata che appunto vede in questo momento cambiare la classifica rispetto all'ultima puntata che avevamo avuto. Partiamo dall'ultima partita, torniamo sul Bologna e parliamo dell'ultima partita. Como, sei andato a Como? No, non sono andato a Como e ho fatto bene, visto come poi si è evoluta a livello di situazioni da interpretazioni giuridiche, perché sappiamo che nel pre-partita il pullman probabilmente quello a noi più affine, quello dei Forever, ragazzi dei Freak più amici e simpatizzanti. Nel percorso dall'autostrada verso lo stadio ha avuto delle scaramucce, cioè il pullman ha subito una provocazione, diciamo, a cui ha prontamente risposto, e c'era la celere schierata lì, quindi si sono portati via tutti. Il peggior scenario possibile per questo genere di cose, quindi abbiamo fatto bene forse a non andare per questa volta. Può essere, davvero, guardarla da casa. Ne avete vista una, hai portato Simone a vedere però il Bologna in questa pausa di Caffè e Paglia? Sì, in via del tutto eccezionale sono stato non solo allo stadio con Simone e un giovanissimo che debuttava al Dall'Ara, ma ci sono stato addirittura nei distinti. Risultato, abbiamo visto il peggior Bologna degli ultimi 2 anni. Non basta, nella giornata penso degli ultimi 10 anni più fredda registrata nella città. So che tu appunto questa cosa ti interessa. È piccolino, ma ha detto papà mi fa vedere i Castro, sto lì che fan, ce lo porti. Chiamato Fio, si va, oh, non ha fiatato, se l'è vista tutta al gelo, è stato bravo. Raga, per dirvela con la lingua di Molière, devi essere in gorbo perché mi è arrivato a gelare di freddo per vedere prendere 2 pappine in scioltezza poi l'Atalanta. È una bella Atalanta, sì, ne parleremo dopo. Ovviamente un'Atalanta che con palla, cioè meglio di Juric non era difficile fare, però con Palladino sembra aver ritrovato un po' la strada che conoscevamo dell'Atalanta di Gasperini, diciamo così, del lungo periodo di Gasperini. Bologna che forse, diciamo, prima della partita potevi dire un punto in questo momento è un como in forma, potrebbe non essere un brutto risultato. È ovvio che quando prendi gol al 95esimo prendi anche un gran gol, ecco, diciamo così, prendi pure un gran gol. Guarda, è l'unica consolazione in quel caso, perché c'è un gol della Madonna, però un bel gol. E perdi questi 2 punti che potevano esserti molto utili. E se Bologna potesse prendere un punto lasciandone 0 al Como, il risultato sarebbe vagamente ragionevole. Così non è, purtroppo, perché il Real Como, il Como dei miracoli, il Como delle meraviglie, il Como modello societario, il Como col suo mercato assolutamente ragionato, il Como che insegna la vita, insegna come si fa sport a tutte le società sportive del mondo, riesce a giocare a pallone di fatto solo quando ha l'uomo in più. Ha l'uomo in più perché l'arbitro in campo è Rosario Abisso, a cui auguro di arbitrare tutte le finali dei mondiali finché campa. Io spero che lui a 96 anni col fischietto in bocca vada a arbitrare una finale dei mondiali, probabilmente tra Kazakistan e Canada. Detto questo, la prestazione va assolutamente salvata, perché il Bologna di fatto gioca a pallone, e questo, visto gli ultimi 2 risultati e anche le ultime prestazioni, più di 2 forse, quelle dopo Vigo, è già un bellissimo segnale. Sì, bisogna capire a questo punto, può anche essere che ci sia stato un lavoro fisico e atletico per recuperare un po' di tono fisico, soprattutto sul lungo, avendo ancora sia l'Europa League, la Coppa Italia, tutti aperti, no? Situazioni, scenari aperti. Può anche essere che questo viaggio in Arabia Saudita non sia stato proprio così comodo. Allora, storia però di Vincenzo Italiano in post partita, in cui parlava di si erano un po' ammorbiditi proprio a livello forse inconscio addirittura, si erano un po', sai, lui ha proprio elencato la finale di Supercoppa, abbiamo toccato la vetta ad Udine per tipo 20 minuti, una cosa del genere, la Coppa Italia da festeggiare, la coccata, insomma sembra che ci sia stato un po' di rilassatezza, si sono un po' seduti i giocatori, forse questo è, sta di fatto che anche dal punto di vista fisico con l'Atalanta e anche diciamo con Sassuolo c'erano state evidenti differenze. Col Como invece, comunque squadra in forma, in questo momento era in forma, la squadra più forte d'Europa di tutti i tempi, certo, e c'è da segnalare questo ritorno un po' del Bologna di Italiano. Si ferma Lokoumi, potrebbe essere un po' lungo Lokoumi che fa la sua lucumata, però no, senza il gol. Sì, la dà il più scarso in campo, perché la dà Nico Paz che decide di tirare sul passo. Sì, subito poteva fare. Ravaglia è pronto. Tirandola diretta a Ravaglia. Mi sembra sì, non la persona migliore a cui regalare un pallone. Però in questo caso, se non altro, segnaliamolo, quella lucumata non ha portato al gol. però poi arriva l'infortunio. È ovvio che Cambiaghi non è stato una volpe, diciamo così, nella situazione. Sei stato proprio gentile. No, sei stato tu gentile nel descriverlo così. Diciamo così, però mi sembra anche che in quel caso, tu parlavi male di Abisso, in realtà Abisso l'aveva visto giusto, aveva dato il giallo, che era forse la cosa più giusta da fare. E poi al VAR gli fanno rivedere un'inquadratura da 60 metri frontale in cui si vede solo il movimento di Cambiaghi, non gli fanno vedere l'immagine in cui si vede che non c'è nessun contatto tra il braccio di nessuno e la faccia di nessuno, perché quello avrebbe portato a giallo per la provocazione a gioco fermo e giallo per simulazione. Quindi ragazzi, il Como non può perdere in casa, è la squadra più forte di tutti i tempi della storia del calcio. No, ma poi posso dire, aggiungo un po' nota solo personale, queste sono espulsioni che se fossi in arbitro non darei mai. Cioè, voglio dire, che succede? Anche ammettendoci fosse stato il contatto, sì, è stato proprio. Hai tirato un po' troppo sul gomito, ma stiamo parlando veramente di centimetri. Se lo fai di pancia, invece che alzare un po' quel gomito lì, si vede già molto meno. È quello che dico. Allora, è stato... ragazzi, ci stanno queste cose. Io sono un po' per ogni tanto. Non dico che legalizzerei le risse tipo nell'hockey, questo no. Però se ci sta ogni tanto una scaramuccia. Giallo, c'è cioè giallo per giallo, quello. Già, due gialli, perfetto. Quello era due gialli. E in quel caso Abisso aveva visto bene. L'altra cosa incomprensibile che è accaduta è il rigore invece, perché se l'arbitro dà il rigore e considera quella spinta la spinta di Wittig che porta al rigore, non lo può scegliere il VAR. Cioè il VAR ha su quella situazione lì, come fa a capire il... Ho rinunciato a cercare di capire come che cosa ragionano nella stanza VAR, ci ho proprio rinunciato. Quindi gli ha sbagliato due, due. Uno, vabbè, è vero, l'ha sbagliato Abisso, perché dal rigore non glielo danno, glielo tolgono. Quell'altra aveva fatto bene, cioè nella situazione di Cambiaghi Abisso aveva fatto bene. Perché è talmente bravo Abisso che ha bisogno di un badante, non di una sala VAR. Cioè questo, lo status è questo, ed è quello che porta alla striscia infinita di imbattibilità casalinga del Como, che non può perdere in casa per nessun motivo contro nessuno. E il risultato è che prende un punto dopo una prestazione di questo tenore. Certo, bene. Ti vorrei ricordare che trasmettiamo anche a Como adesso. Ma salutiamo i ragazzi di Como che hanno visto una partita bellissima. Tra l'altro in uno stadio che è una cattedrale del calcio mondiale, bellissimo anche da vedere, si vede anche in televisione, veramente molto bello, con dei campioni come Van der Bremt che incitano il Keira Knightley in parterre. Cioè è una roba magica che solo loro possono vedere e un po' gliela invidio. Va bene, un po'. Ti sei dimenticato di citare il buon vecchio caro Giorgio che c'ha casa da quelle parti? Sai che ha venduto? L'ha venduta? Sì. No! Sì, perché lui tifa per il Varese e quindi sta sul cavolo tutti quelli del Como, è andato via. Addiao l'ha venduta, tra l'altro. Addiao l'ha venduta, l'ha comprata Addiao. Che non gioca più. Nemmeno in Monza, il Varese però. Così, Giorgio è strano, quindi comunque... Simpatico lui. Torniamo quindi al Bologna, che comunque dovrà tornare subito in campo perché si recupera la partita non giocata per la semifinale di Supercoppa. Si va a Verona che ha perso con un autogol una partita comunque ben giocata, tra l'altro si gioca con il mercato aperto, perché siamo a gennaio, quindi il mercato aperto qualcosa forse in pentola bolle. E si gioca anche di venerdì alle 18:30, perché il calendario è stato fatto probabilmente dai servizi, no, di giovedì alle 18:30, scusami, dai servizi segreti sudafricani degli anni 80, cioè da delle persone più abbiette a disposizione su scala mondiale. E, sì, alle 6:30 infrasettimanale, bellissimo. E poi si torna a giocare in casa contro la Fiorentina alle 18, alle 15, scusami, non sto più dietro al calendario. Domenica alle 15 con la Fiorentina. Saranno due partite molto importanti, la Fiorentina che insomma si è un po' ripresa, e anche la classifica, dopo le guarderemo, non è più così terribile come... insomma, la storia ancora si può fare, ecco, questo che sembrava più difficile. Per darti la misura della qualità di questo campionato, una squadra che fino a tipo l'altro ieri non aveva ancora vinto una partita, è già quasi salva. È quasi salva. Che con tipo tre risultati buoni, nemmeno dominano, tre risultatini che già salva. Sì, questa è la situazione, racconto un po' del campionato. È ovvio che il Bologna, si sapeva che gennaio sarebbe stato molto denso e ricco di appuntamenti, anche perché c'è poi l'Europa League dopo la Fiorentina. Si gioca l'ultima partita in casa del primo giro della prima fase, del campionato, e, ed è una partita che il Bologna deve vincere se vuole ambire a entrare nelle prime otto, che non tanto per sburoneria, ma che ti tolgono due partite, se non altro. Sì, sarebbe opportuno anche ragionare sulla linea del tempo, perché abbiamo visto che sotto pressione, allungando le rotazioni, non sempre in tutti i reparti il Bologna è tranquillo. Sul mercato si interverrà, verosimilmente sì, soprattutto dietro in mezzo. Si è parlato in realtà nel mainstream nazionale più di giocatori in uscita dal Bologna che di giocatori in entrata. Si è parlato molto di Fabiani in uscita, per esempio. Vabbè, anche sta trovando posto in queste ultime giornate un po' più del solito. È vero che è frutto anche di un po' di infortuni e un po' evidentemente di forma non recuperata di alcuni giocatori, perché non sono infortuni quelli di Odgaard e Ferguson, sono probabilmente cali di forma. Su Ferguson il discorso secondo me è particolarmente complicato, perché nei 90 minuti contro l'Atalanta penso abbiamo visto il peggior Ferguson in maglia rossoblu di sempre. Però avendo la vista da casa, allettato dal mal di schiena, in TV è quello che ha corso di più. È quello che ha corso, ha fatto più chilometri. Mi ha un po' colpito, nel senso che c'è il dato quello delle, proprio dei chilometri percorsi, ha corso molto a vuoto, questo è il problema, è poco incisivo quando è, poi con la palla adesso ultimamente non ha più quella dimestichezza di un tempo. È vero che è uno di quelli un po' sotto la media della sua potenzialità, molto sotto la sua potenzialità massima. L'altro è Odgaard, che evidentemente non riesce a tenere la forma fisica che l'anno scorso invece l'aveva fatto esplodere, in questo periodo se non sbaglio, proprio rendendolo un giocatore indispensabile e pedina fondamentale dello scacchiere d'italiano. Odgaard quest'anno ne gioca una, tre sta seduto, ha fatto qualche partita buona, ma ovviamente manca molto di continuità. È ritornato Freuler, questo se vogliamo da un punto di vista essere un po' positivi e guardare il bicchiere mezzo pieno. Quella forse è l'unica nota positiva, oltre al gol furbo tra virgolette di Santi Castro, dell'altra partita che non abbiamo commentato, l'altro bruttissimo Bologna che ne prende tre dall'Inter. È vero, c'era anche quello in mezzo, sì, c'è stato prima dell'anno c'era l'Inter, quindi insomma è ovvio che era una serie importante. Ci fa pensare che il Bologna giochi meglio quando c'è Caffè Paglia tutte le settimane. Eh sì, forse dovremmo trarne un insegnamento. Credo possa essere questo, no? La chiave un po' della stagione. Guarda, volevamo esserci, ma poi c'avevo troppo panettone al cioccolato ancora sullo stomaco e non si poteva fare. Non si poteva fare. Colpa nostra, rimedieremo. Però insomma questa è la situazione. Ora bisogna lottare per l'Europa, diciamo quella bassa, quella che ti può dare il convento in questo momento. Non ci sono più sogni dal punto di vista delle prime posizioni, bisogna tornare a martellare. È anche vero che questo Bologna è stato molto studiato dalle altre squadre e mi sembra che i cambiamenti tattici per ora proposti siano più estemporanei che di struttura. Queste due punte che ogni tanto si prova a mettere nella situazione, sempre nel finale della situazione, non hanno ancora, se non una volta, contro il Genova, che la prima volta vengono usate e portano alla vittoria. Nelle ultime giornate, diciamo, poco è cambiato. C'è anche un calo degli esterni. Orsolini non è l'Orsolini di inizio stagione, non è in questo momento ha qualche problema. Cambiaghi si è infortunato quando era in super forma e è ritornato, ma è un filo sotto a quello che era prima dell'infortunio. Un po' la stessa cosa può essere anche per Bernardeschi, cioè si sono infortunati i giocatori che erano in forma. Esatto, soprattutto Bernardeschi. Berna era in pieno, nel suo pieno, e si è infortunato lì. Parliamo forse anche dell'unica squadra di calcio professionistica al mondo che fa due clavicole in stagione, eh? C'è anche una componente di sfortuna, ovviamente, in questo può esserci, però da quello che si legge, da quello che si vede, penso che la società l'abbia capito, società e italiano siano d'accordo nel muovere qualcosa. Forse le uscite che tu dicevi e citavi servono per liberare poi lo spazio per quelli che entrano, no? È necessario anche fare quello nello scacchiere di una squadra che credo abbia un numero X di contratti possibili. Ci abbiamo Bonifazi, ad esempio, che è comunque sotto contratto, ma non è in nessuna lista. Perché dici, no, ti mancava un centrale, fosse uno che... Quando escono le formazioni su diretta.it, Bonifazi viene classificato come inattivo, come se fosse una cellula dormiente di una società segreta. È un inattivo lì che può esplodere da un momento all'altro. Sì, non è stato inserito nelle liste, quindi insomma credo che si alleni da solo, non so se fa neanche sparring durante gli allenamenti. Questo è il fatto che appunto ora si deve iniziare a crescere, questa è la situazione necessaria per il Bologna. Io spero che appunto questo leggero calo anche fisico sia dovuto a un recupero di preparazione atletica per finire in crescita. Vedremo, lo scopriremo, perché ne giochiamo così tante che è la prima cosa che si riesce a capire, direi. Vediamo, perché sembra che avete preso tipo una folle mentre salivate di marcia. Non so se riesco a rendere bene l'idea. È sembrato letteralmente, perché stavate proprio a palla, non proprio elegantissimo, ma che rende l'idea. E è come se davvero se vi foste fermare, come se si fosse inciampato il cambio, non so, qualcosa. Adesso vediamo. A Como, ripeto, come hai detto tu all'inizio della trasmissione, se qualcuno ti avesse detto, oh, vai a Como, pareggi di sto periodo, quasi sembrava un buon affare, e invece ti ritrovo a stare qui a recriminare per due punti gettati per un gol stellare a tre secondi dalla fine, può rodere, può dare fastidio. Vediamo se si ripartirà qui. Mi sembra serve una vittoria. Sì, serve una vittoria. Un paio di vittorie che insomma si bisognerebbe, ecco, per tornare bisognerebbe vincere le prossime due, esatto. Verona e Firenze, anche tre, Celtic. Così ne dici, fai un filotto e buona, e ti togli il gatto dalla schiena. Può essere un'idea, ci pensiamo ascoltando la pubblicità. Top 5, siamo dentro la top 5, siamo quasi pronti per la top 5. Prima della top 5, un paio di messaggi giunti al 333 180 94 94. Per me Lucumi ha simulato un malessere perché c'era rimasto molto male, cioè l'ha esplicitamente passato al più forte delle due rose in campo e manco è riuscito a segnare. Il ragazzo è un perfezionista anche nelle locumate e ha ritenuto un fallimento inaccettabile, quindi fingere un infortunio. Può essere una bella idea. Si tocca la coscia da un po' troppo tempo e se la tocca in modo non sensuale, quindi c'è anche quello da tenere conto. Che la testa sia un po' da un'altra parte è un tema da approfondire. Tu dici questo. Ciao ragazzi, non pensate che le difficoltà del Bologna derivano dalla campagna acquisti estiva? Secondo me è al di sotto delle aspettative. Che giocatore è Rowe? Spiegatevelo. Adesso ci proviamo. Rowe, un giocatore di grande fantasia, poca continuità, con doti fisiche assolutamente adeguate al mestiere che deve fare. Col Como secondo me ha fatto una buonissima prestazione, in altri casi no, molto lontano dalla sufficienza anche. A me sembra un bel freak atletico, sportivo, però mi sembra sempre poco lucido quando deve decidere la giocata che devi fare in quel momento. Non mi sembra mai letteralmente, non è una bella cosa da dire, mi rendo conto, però mi sembra davvero poco lucido nelle scelte. Poi magari è un giocatore che gioca più in modo un po' più istintivo, si lascia prendere dal momento, la giocata estemporanea magari fatta in velocità, lo capisco, è quel tipo di giocatore che a me piace anche, però vediamo come matura. C'è un altro messaggio, l'ultimo, e poi dopo ci buttiamo nella top 5. Comunque, dopo il Magic November, tutte quante le radio, Mongo compreso, stavano spruzzando per lo scudo. Radio Mongo, non so chi sia, forse è un bingo sbagliato. Secondo me è un bingo. È un bingo sbagliato, però mi piaceva. Radio Mongo, anche Radio Mongo diceva che noi potevamo vincere lo scudetto. Ci sta. Altro che folle e marce mancate. No, ci sta, adesso che se qualcuno ci vuole prendere per il culo è giusto che sia. Ok, me ne sono presa anch'io le mie prese. Però era il momento di cercare di buttare il cuore oltre oltre l'orizzonte. E comunque lo potevi dire solo in quel momento lì, abbiamo colto il, il momento storico in cui si poteva dire subito dopo, appena abbiamo detto non è andato, non penserete che la sfortuna possa essere, no? Siamo comunque, sappiamo che le cose vanno in un altro modo. Infatti ci apprestiamo a presentare una top 5 razionalista. No, cioè come proprio l'architettura che ha sempre ragione. E, una top 5 che racconta quello che è successo in questa giornata di campionato, che è stata bizzarra, a suo modo bizzarra. E, iniziamo così a casaccio, iniziamo da un tema che nessuno ha ancora sollevato. Perché comunque è lunedì mattina, se non lo sollevi adesso, quando lo sollevi? I due gol più belli della giornata vengono da due sfide salvezza. Oh, la salvezza, quindi partiamo da sotto, vediamo quello che sta accadendo. Ci si sta muovendo sotto, in generale, non solo la Fiorentina, che comunque in questo momento con due punti andrebbe allo spareggio col Genoa. È vero che il Genoa ha una partita in meno, giocherà oggi col Cagliari, sfida proprio super diretta, perché sono tutte lì nella parte bassa della situazione. Ci sono bei gol, però anche, lo so, nell'ultimo in classifica. Sì, perché forse il gol più bello della giornata è quello con cui il Pisa va in vantaggio alla Blue Energy Stadium, già Dacia Arena, già Stadio Friuli, insomma a Udine. Tra l'altro tantissimi i tifosi pisani in trasferta, a colpo d'occhio impressionante nel settore ospiti di Udine. Il gol con cui va in vantaggio il Pisa è un gol in cui un giocatore, allargandosi, ricevendo uno scarico normalone da il più normalone in campo, Michel Ebischer, proprio lui, fa una mezzaluna a cercarsi lo spazio per poi prendere la mira e metterla dove Okoye non potrà mai arrivare. Il gol è di Tramoni ed è veramente molto molto molto bello. E Tramoni è un po' quello che insomma aveva guidato la squadra alla risalita storica, perché era da tanti anni che il Pisa non giocava in Serie A. Era quello da cui ci si aspettava, no? Qualcosa in più dopo l'ottima stagione, ed è quello che forse ha avuto più necessità, più problemi ad adattarsi allo stile della Serie A. Però numeri li ha fatti, anche l'anno scorso aveva fatto 10-12 gol, insomma era un centrocampista con il gol addosso. È il secondo, credo, gol di Tramoni in 3-4 partite. Insomma, può essere che sia la carta su cui puntare per il Pisa, che in questo momento è ultimo, è un'altra squadra che non vince praticamente mai, credo ne abbia vinta una sola, è rimasta una, e quindi ha tanti pareggi, 10 pareggi. Poi mi dovrete spiegare perché lo fa, magari soltanto a me come effetto, non riesco a provare empatia per tutta sta Toscana in difficoltà in Serie A. Pisa, Fiorentina, sono tutti. Sì, non è un bel. Non riesco a provare in pace. Mi dispiace. Salutiamo i nuovi ascoltatori che ci ascoltano dalla Toscana, in particolare dalle altre province, quindi Livorno, Grosseto. Quelle sono piazze che mi piacciono. Sì, no, quelle sono belle piazze, quelle lì. Beh, anche Pisa è una piazza che mi piace, e in realtà non, le due situazioni di Fiorentina e Pisa non sono assolutamente paragonabili. Sì, sono. Comunque, per tornare. A parte la Toscanità, non hanno nient'altro in comune. Esatto, sono due storie. Mi piace Empoli, per esempio. Ecco, va bene. Diciamo appunto Pisa, che in questo momento è ultimo insieme al Verona, Verona che deve giocare col Bologna, la sfida di recupero in settimana. Davanti comunque appunto c'è anche Lecce di Francesco, altro protagonista della stessa voce in top 5, cioè i golazzi salvezza. Golazzo salvezza veramente malinconico, perché comunque porta in vantaggio al 52esimo secondo il Lecce nello scontro, diciamolo, scontro diretto, lo era prima dell'inizio di quella partita contro il Parma. Il Lecce va subito in vantaggio con un gran gol di Stulic, girata da centravanti, vero, in un contesto di fase difensiva del Parma non eccezionale, non è neanche il primo minuto di gioco. Esatto, erano ancora lì che si piazzavano, probabilmente 50 secondi. Poi purtroppo purtroppo per i ragazzi di Francesco, la partita prende una piega psicodrammatica quando Banda decide di uccidere uno a centrocampo, nella sua tre quarti, neanche a centrocampo, in un modo assolutamente inconsulto. Anche lì, decisione corretta dal VAR, che da solo giallo. Dio, se quello è un intervento da giallo, dobbiamo ridiscutere anche i canoni assicurativi di uno che di lavoro gioca a pallone. Sì, in effetti. Però non basta, anche Gaspar. Devono aver mangiato pesante prima della partita. C'è anche Gaspar, va giù di testa nel finale, dove vabbè, contava poco, però dà dei calcioni a uno per terra. Sì, Gaspar aggredisce Pellegrino che è per terra. Una roba che neanche negli scontri ultras più infami si fanno. Che poi gli dà due calci. Il primo si vede che il pallone è più o meno lì da qualche parte. Il secondo lo prende proprio lì. Lì. Cioè non c'è più boccia che... È bellissimo come reagisce quando l'arbitro gli fa: oh, ma che stai a fare? Dai, non si fa lui. Io non faccio niente. Io facciamo quasi per caso. È quell'altro che è matto. No, c'è niente. Quindi insomma, c'è quella... per il Lecce appunto si fa dura. È ricordato nella, anche il Parma segnò al Bologna dopo pochi secondi, ancora meno secondi, ancora forse al 14° secondo, e poi perse, quindi porta male, segnare troppo presto. Sì, è una roba da ridiscutere. Segnaliamo nella stessa partita, siccome piove sempre sul bagnato, il momentaneo pareggio del Parma è un autogol di Thiago Gabriel, molto bello, molto bello, cioè molto bello come dote balistica nel colpo di testa, purtroppo nell'altra porta, nell'altra porta, quindi insomma con qualche problema. E poi Pellegrino appunto porta la vittoria al Parma, vittoria importante perché stacca un po' il Parma dalle... Sì, dalle... ragazzo però, segnato, sì, l'avevamo visto subito lui l'anno scorso, no? Che aveva fatto quell'esordio subito in gol, cioè con ragazzo col gol addosso. C'è una statistica curiosa: ogni 4 gol segnati da quando è in Italia, 3 sono di testa. Cioè il 75% delle sue marcature sono colpi di testa. Era un po' che non c'era un centravanti che sapeva 90, fare gol di testa, cioè... era un po', si era un po' perso il finto nueve, il pistanino che corre. Invece insomma quelli che segnano anche di testa sono poi belli lo stesso. Belli lo stesso. La classifica del Parma in questo momento è abbastanza bella, nel senso che questo è uno scontro diretto molto pesante e porta i ragazzi della Via Emilia a un, devo dire, abbastanza clamoroso +7 sulla salvezza, sulla zona di retrocessione, con addirittura una partita in meno. Sì, c'hanno ancora una partita da recuperare e credo che non sia facile, perché deve essere con una che ha fatto la Supercoppa e quindi non credo che sia proprio una partita, e non siamo noi, e non siamo noi, quindi Milan potrebbe essere, se gli va bene è il Milan, se no è Inter-Napoli, cioè una delle due. Questa è la situazione. Però raga, è allenata da un ragazzino, infatti è interessante, ha giovani interessanti che comunque si stanno mettendo in mostra, insomma mi sembra una squadra che ha un senso. Tra l'altro questa abbastanza contestato a Parma dall'inizio dell'anno, perché non hanno, cioè è uno che gli piace il calcio ma gli piace anche non giocare a calcio, e i tifosi del Parma forse vorrebbero più qualità nell'arco dell'ora e mezza, cioè vorrebbero delle prestazioni un po' più belle da vedere. Però se i punti sono questi, secondo me c'è poco da recriminare. Raga, c'è poche chiacchiere, la classifica è molto bella per una squadra, no? E di lui leggevo che è stato preso da un ex dirigente della Juventus, che lo aveva incontrato quando era ancora la Juve, lui era tipo il vice qualcosa, una figura nel quadrante, diciamo, di una società molto bassa, era solo un consulente, e però era rimasto conquistato perché pare che ci abbia, vive semplicemente per il pallone. È proprio, sì. Pare che viva semplicemente per quello. E quindi gli ha parlato, cioè, di tattiche, esatto, cose del genere, quindi l'ha convinto in questo modo. Comunque non sta sfigurando in questa serie. Vabbè. Andiamo avanti, risalendo dal basso verso l'alto. L'altro punto in top 5 ha un titolo abbastanza evocativo, che è Viola versus Storia versus Verona. Ok, questo è. Così, racconta una storia di piani bassi di classifica, racconta della storia. La storia è proprio lo spirito della storia che aleggia intorno alle vite di tutti noi, affrontato con la maglia della Fiorentina o con la maglia del Verona. La maglia del Verona porta a una partita in cui la Lazio fa posta piena, giocando una partita non spettacolare, onesta. In realtà la tre quarti costruisce tanto, la difesa è abbastanza attenta, Noslin sbaglia tutto quello che può sbagliare e la Lazio sembra fare molta fatica a segnare. Il Verona fa una partita ordinata, cercando di tenere il punto, incontra poche volte Provedel, lo mette poco in difficoltà. Alla fine la gara è una gara da tre punti per i giocatori in maglia biancoceleste, ospiti al Bentegodi, è un autogol, anche lì un autogol abbastanza sfortunato, una deviazione che alza il pallone, trasforma un rasoterra di Lazzari in un pallonetto imprendibile per Montipò. La sfortuna, diciamo, in questo caso. La Lazio si riprende magari qualche punto che aveva perso per strada. Una Lazio che sta adesso in questo momento è davanti al Bologna, un punto in più del Bologna con una partita in più giocata. Per quanto riguarda il Verona, aveva un po' rialzato la testa con buoni risultati, prestazioni più che buoni risultati. Aveva pareggiato a Napoli nei giorni in cui non eravamo in diretta, quindi insomma qualche cosa l'aveva tirato fuori. È ovvio che sarà lì a lottare. La Fiorentina invece va a pareggiare col Milan, tra l'altro il Milan pareggia al 90esimo, insomma, verso la fine della partita, quindi rischiato anche di vincere, sarebbe stato ovviamente per la Fiorentina un super colpo. Ha pareggiato anche a Roma con la Lazio, abbiamo detto per il Bologna, un pareggio, un punto preso a Roma o con la Lazio o con la Roma non può essere, insomma, non è mai brutto, insomma, è mai brutta, no, ovviamente. E aveva battuto la Cremonese, questo è lo score della Fiorentina in questo momento, quindi insomma è in tre giornate in serie positiva con questi 5 punti fatti in queste 3 giornate, è già lì vicino alla salvezza. Quindi è una storia scrivibile, no? Avevamo detto della storia il fatto che nessuna squadra che aveva perso, che non aveva vinto nelle prime 14 giornate, mi sembra, si era mai salvata, e abbiamo anche detto che però questa Fiorentina ha dei valori in realtà in campo di rosa che, se paragonati a quelli sotto, insomma, fanno spavento. Nell'epoca dei 3 punti, diciamo così, può cambiare. Attenzione, e sarebbe un miracolo, sì, grande, ma molto meno dal mio punto di vista di quello che preparò la Salernitana tipo un paio d'anni fa. Non so se vi ricordate quella Salernitana, sì, quella di Sabatini. Era tipo a meno 140 a Natale, non si sa come cazzo abbia fatto, ma riuscì a salvarsi. Ma con Verona, vediamo, ricordo che aveva fatto pochissimi punti e poi cambiò tutti i giocatori a gennaio. Attenzione, e nella Salernitana non aveva questo stacco tecnico di cui tu hai appena parlato della Fiorentina, cioè il valore era di una squadra che doveva retrocedere, non di questa Fiorentina. Sì, aveva tirato fuori qualche perla, quell'Ederson che adesso sgalloppa sul centrocampo dell'Atalanta, era arrivato in quel gennaio lì, insomma, dei bei giocatori erano arrivati in quella squadra. Comunque, diciamo, per la Fiorentina ovviamente ancora in questo momento sarebbe retrocessa, ma i punti, la vista, diciamo così, è diversa. Per la prima volta gioca a pallone quest'anno, ma non nel 2026, proprio quest'anno, in questa stagione, la Fiorentina va in vantaggio al 66esimo con colpo di testa di Comuzzo su corner di Gudmundsson. Da segnalare che in quel momento, fino a quel momento, il Milan ha sbagliato 2 gol gemelli con Pulisic, presentando anche il nuovo acquisto Fulkrug. Ora, Fulkrug ha fatto delle cose interessanti in carriera, non sembra neanche minimamente vicino alla sua forma ideale, ma io l'ho visto giocare in un modo veramente antico. Lui praticamente marca a uomo il suo difensore di riferimento e fa una sponda a 3 metri. Sì, però ieri, se Pulisic fa quello che deve fare, cioè segnare, Fulkrug chiude con 2 assist serviti in 10 minuti. Sì. Identici. Sì, clamoroso. Avrebbe chiuso con sulla tabella 2 assist così, senza muoversi, come dice lui, di boa, di spalle, facendo così. È abbastanza peculiare questa roba, anche perché poi le castagne dal fuoco ad Allegri le toglie un altro giocatore di quelli che io ho detto da subito: ma siete matti, ma questo è fradicio, questo fisicamente messo peggio di me, che è Nkunku, che è stato anche lui un giocatore di qualità molto interessanti in carriera. Era un beniamino di questo studio, ve lo dico, non so se ve lo ricordate, quando era all'Ipsia era un beniamino di questo studio. E comunque la risolve lui al 90esimo su assistenza di Fofana, che si riprende dallo svenimento accidentale di settimana scorsa contro il Genoa, che è diventato uno sticker per le vostre chat WhatsApp. Sì, c'è quel Genoa Milan, qualche meme l'ha fatto, dalla buca di Pavlovic sul rigore sbagliato al 99esimo, quant'era, ormai era passato un sacco, perché per scegliere, decidere se no, quindi l'ha fatto bello profondo, ha avuto tempo per fare lo scavetto bello profondo. fondo. Lo fece Maspero a un derby, fu il mio eroe della settimana. Lì l'arbitro deve tenere i giocatori fuori dall'area, lontani dal dischetto. Se nessuno mette in condizioni il dischetto di stare tranquillo, che uno lo vada a molestare è il minimo. Però da rigorista in età qui giocavo, ero rigorista, io pigliavo la palla e iniziavo a parlare col dischetto dal primo momento. È vero che non avevano il VAR, non c'avevo le partite che giocavo io non c'era il VAR, c'erano molte discussioni comunque, e io prendevo la palla e mi guardavo il dischetto. Stavi lì, vedrai che se stai lì nessuno ti viene a fare lo scavetto. Ma una curiosità, ma Maspero era quello della Cremonese? Ma ha giocato a Bologna, perché non me lo ricordo. No, a Torino un derby con la maglia del Toro. Ok, ho capito. Errore sbagliato, rigore sbagliato la Juve. Non riuscivo a con Maspero che aveva fatto lo scavetto. E tra l'altro il rigore il Genoa lo sbaglia perché lo tira Stanciu che è appena entrato. Cioè, se un giocatore fosse stato in campo un'ora e mezza avrebbe avuto la lucidità di. Ma uno appena entrato dice entro, spacco, esco, ciao, non guarda neanche lì per terra dove appoggia il pallone. Ma questo non fu argomento di discussione e anche di derisione verso la perfida Albione durante gli europei, cioè che non si fa entrare un uomo apposta per tirare il rigore mai. Era quello. Bello ritornare ai fondamentali di tanto in tanto. Adesso le voci in top 5 sarebbero due, ma noi le accorpiamo perché sono due voci speculari, ma neanche speculari, consecutive, concatenate. Adesso vi dico i titoli, poi così capite voi, perché sono Palladino Gasperinato e Gasperini Gasperinato. Sono due voci gasperinate. Sono entrambe gasperinate. Sì, partiamo da Palladino, l'avevamo un po' citato all'inizio della trasmissione, come sia riuscito a entrare nella squadra e a riprenderla dopo un inizio faticoso con Juric, allenatore che intanto esce dalla Fiorentina dicendo io me ne vado, cioè vede la situazione, capisce quello che sta accadendo e se ne va lui. E poi la Fiorentina l'abbiamo vista con Pioli, fa le uscite, no? Noi non siamo nella Champions, cioè non ci mettono tra la Champions, cose del genere, e finisce che non vince una partita in 14 giornate. Palladino va e riporta l'Atalanta a giocare in un modo appunto un po' gasperiniano, e per questo che è gasperinato. Vince col Torino, grandissima squadra per la Gazzetta dello Sport, ma un po' meno per le altre. Ero proprio apposta tornato nella home della Gazzetta per cercare notizie sul Torino, e sono tutte notizie sul Torino in realtà, non ci salto fuori. E Atalanta che apparentemente è meno dominante dal punto di vista del possesso della manovra rispetto alla gara col Bologna, ma in realtà produce una quantità di expected goals mostruosa, e alla fine la vince 2-0. Apre con De Ketelaere, che era un po' che non segnava, ma comunque le prestazioni anche contro il Bologna le ha continuate a fare, e la chiude allo scadere con Pasalic. 2-0 il risultato, rotondo e completo, poteva essere ancora superiore. Paleari fa una buona partita. Le ultime 6 partite dell'Atalanta in campionato sono 5 vittorie e una sconfitta, 1-0 contro l'Inter, che quindi ci può anche stare. Beh, insomma, sconfitta con i primi della classe. Con i primi della classe. E prima di arrivare ai primi della classe, invece, guardiamo Gasperini, che è gasperinato. Gasperinato riesce finalmente, forse per la prima volta in stagione in campionato, a far vedere tutta la sua idea di calcio offensivo sfacciato, prorompente, in una partita di campionato. Ne fa le spese il Sassuolo, Sassuolo in vero abbastanza modesto, era una partita che prima dell'inizio aveva una grande scritta 1-0 Roma, e invece finisce 2-0. 2-0, non 1-0, 2-0. Ed è una Roma che continua a correre. È vero che è quella delle squadre di testa che ha giocato una partita in più, quindi i suoi 39 punti sono dopo 20 partite, mentre le altre ne hanno 19, però è pari in questo momento al Napoli, con il Napoli dovrà recuperare, e quindi insomma comunque in un'ottima posizione. Roma che fa 2 gol in 3 minuti con Manu Koné e Mattia Solé, anche riproducendo una grande quantità di palla gol, con il Sassuolo che fa più o meno lo spettatore non pagante, come si dice in questi casi. È una vittoria schiacciante proprio per come si muovono per la prima volta quest'anno i giocatori in maglia giallorossa. Sì, non solo la fase. Comunque, bravo Gasperini che ha. Primo non prenderle perché rimane la miglior difesa, eh? La Roma è la miglior difesa del campionato e lui ha prima settato quella parte lì, poi ha iniziato a mettere qualche idea sulla parte offensiva, sta cercando un attaccante. Ho letto dell'interessamento, si dice, verso Daniel Malen, l'olandese che era stato al Borussia, adesso è al West Ham, Aston Villa. Se salta Raspadori potrebbe essere la... È un mio feticcio, lo riconosco. Quindi... È un mio feticcio dai tempi del PSV, perché credo sia davvero un giocatore fantastico. Sarebbe molto figo vederlo con la Roma. E con Gasperini potrebbe avere un bel gioco. Siamo arrivati al termine di questa top 5 e non poteva mancare le big match. Le big match, che in America si chiama quarter pound with match, come diceva quello, e è veramente noi spesso ironizziamo sul calcio italiano prodotto da esportazione. Questa era una partita calcio italiano prodotto da esportazione. Dai, rispetto a tante altre sfide, no, che esatto, spesso c'erano degli 0-0 bloccati in cui ci si faceva poco male, questa è stata una partita, una bella partita di calcio, tanto che Conte è impazzito. Conte impazzisce, non che lui tra l'altro con la colpa, cioè tu hai questa roba che comunque 800 telecamere che fanno vedere tutto, le cose del genere, tu fai quel numero lì senza aver visto un rigore che c'era, cioè quindi hai fatto una roba bruttissima. Quello è step on foot, figlio della dinamica. Se lo prende Pobega invece si chiama Pestone e basta. Esatto. Però quello è step on foot, figlio della dinamica. Posso dire che è il rigore più ridicolo inventato dalla storia dell'uomo. Attenzione, non quello che danno ieri, perché è la regola. Io sto dicendo proprio la regola che determina il rigore. È una cosa che posso dire, mi ingastrisce. Non lo posso tollerare ogni volta che ne vedo uno concesso. Lo step on foot. Ma cioè, anche perché mi devi spiegare quello come fa a fermare il piede, appunto il foot, se l'altro la tocca prima in un micro spazio tempo di un centimetro e tu c'hai mezzo millesimo di secondo. Beh, è impossibile. E poi dove cazzo è questo danno se lui il pallone l'ha gelato via? È una cosa che mi manda i matti. Come regola, tu dici come regola. Sì, cioè, però la regola esiste, è cioè, buona. Ed è utilizzata così. Si può commentare, giusto? La regola, solo in questo caso. Comunque l'Inter rimane in vetta al campionato, va in vantaggio due volte e viene recuperata due volte da McTominay, che sembra tornare un po' quello dell'anno scorso, diciamo così. È clamoroso, assolutamente dominante. Lui quando lo vedo giocare, penso, ma quelli di Manchester, guardi, testa c'hanno. L'abbiamo detto tante volte da questi microfoni, una delle piazze peggiori in Europa per giocare a pallone. Lui, tra l'altro, sembra Robocop, gioca a centrocampo con dei piedi, ma anche solo quando lo vedi correre. Ce l'hai uno migliore tu? No! Cioè, non puoi averne uno migliore. È incredibile come lui perda il pallone che manda in porta sul primo gol l'Inter. In realtà c'è un bel lavoro di riaggressione, non è che lo perde così, perché non sa dov'è. E segnano due gol gemelli nel primo tempo l'Inter e il Napoli. Si vede che la partita sarà tutta da giocare. L'episodio del rigore di Conte che impazzisce è al 73esimo. Neanche 10 minuti dopo McTominay la riprende. Quello mi sembra un ottimo segnale per il Napoli, nel senso che rigore, quel rigore che sblocca la partita, che potrebbe dare insomma la vittoria all'Inter in un certo senso. È espulso l'allenatore, momento molto critico, diciamo così. La squadra è ancora lì con la testa e riesce a recuperare. Vale doppio secondo me il recupero in questo caso, soprattutto dopo la doppia botta rigore espulsione. Volevi aggiungere qualcosa? Veloce, perché stiamo per andare in pubblicità. Molto veloce, è stato molto bello vedere il gol del vantaggio dell'Inter, perché nella fotografia che sono riuscito a fermare, voi due riuscite a vederla, che ne spettatore, però si vede proprio la finezza tattica di entrambe le squadre. Cioè il Napoli è con un 4-1 in costruzione, l'Inter invece è con un 4-1 in pressione, cioè esattamente al contrario, uno yin e yang, e funziona naturalmente il recupero della sul secondo quarto di campo dell'Inter, che sono in quattro intorno al portatore palla, e poi da lì vanno dritto in palla. Molto bella questa parte di ripartenza. Immagine, questa parte di ripartenza. Molto bene, bene, l'abbiamo segnalato. A questo punto abbiamo terminato la top 5. Radio Città Fucino, e la storia continua. E rieccoci dritti, così brutti, sporchi e cattivi, senza base, tra l'altro, la canterò io a cappella mentre Simone ci ricorda che stiamo entrando nella parte di Caffè e Paglia che parla di calcio internazionale. Assolutamente, ben bella la la, momento davvero amatoriale. Siamo dei grandi. Il calcio internazionale regala grandi emozioni, eccola. Grandi al punto da meritarsi la base vera. Ricordiamo il numero degli sms 333 180 9494, per chi vuole contribuire al dibattito che abbiamo ampiamente spalmato nel corso di questa oretta di diretta. Il calcio internazionale ci regala grandi emozioni perché non fa arrabbiare Simone Maloni questa settimana, non lo fa arrabbiare entro un certo margine perché la Premier non gioca. Non ha giocato per dare spazio alla nostra competizione preferita di sempre, che non è la Supercoppa di Spagna, è l'FA Cup. E poi ne parliamo della Supercoppa. Parleremo anche di quello, ma l'FA Cup con il suo sapore antico di calcio d'altri tempi in cui le provinciali perpetue infinite di minima serie affrontano i nomi blasonati del calcio inglese, che regala grandi emozioni di tanto in tanto, ci porta in località esotiche e amene, ma la squadra copertina di questa rubrica è il Macclesfield. Cosa sappiamo del Macclesfield? Sappiamo che, cerchiamo di dirla in italiano per far capire le proporzioni della cosa, è una squadra di promozione, quindi sesto livello del territorio italiano, ok? Dopo la promozione c'è la prima categoria, beh, dall'idea. Di eccellenza promozione. Una squadra di questo livello inglese semplicemente fa fuori dalla competizione i detentori della Coppa, cioè il Crystal Palace. È come se appunto una squadra di promozione qualsiasi facesse fuori il Bologna dalla Coppa Italia. Sarebbe incredibile, ma fortunatamente almeno quella quest'anno non ce la becchiamo. Però sì, i rosso-blu di Croydon prendono sotto gamba l'impegno, che ne sai. C'è anche il fattore cambio, il campo al contrario in FA Cup tradizionalmente. Comunque, allo scadere del primo tempo, Dawson porta avanti il pasticcere del probabilmente paese, sì, immagino. Al 60° Buckley raddoppia e il gol di Jeremy Pino arriva al 90° e non basta, ma proprio neanche un po', e i detentori della competizione più antica del mondo vanno fuori così a un turno morbido contro una squadra molto molto inferiore sulla carta. Attenzione, non parliamo della prima potenza della promozione inglese, ma di una squadra che ha 23 punti dalla vetta del campionato di promozione inglese, quindi è oltre il bello questa cosa qui. Adesso serio, in secondo è quello che tutti noi speriamo nel cioè quando andiamo a leggere il regolamento di un torneo, cioè che possa succedere una cosa del genere. È quasi irreale da raccontare, ma sono cose che purtroppo in Inghilterra loro se la godono ogni anno, questo tipo di miracolo, questo tipo di magia se la godono ogni anno. Eccoli qua, stiamo guardando le immagini adesso, cioè una squadra di promozione che fa fuori Bologna così. Clamoroso. Altro risultato interessante è quello del Wrexham, che elimina il Nottingham Forest con un 4-3, portandoli ai rigori. Ma questa è una squadra tipo di Serie D già, se non mi sbaglio, sono nella quarta categoria inglese. Terza categoria di Serie C, gioca James McLean, ex Wigan, giocatore nordirlandese che ha scelto la nazionale irlandese, che non indossa il poppy perché è irlandese e viene da una città funestata dai Troubles e bullizzata dall'esercito inglese negli anni 80 durante i disordini per l'indipendenza dell'Irlanda del Nord. Un'altra storia interessante, purtroppo poi a toglierci la poesia, c'è il City che vince 10-1 e ci ricorda che comunque che i cattivi esistono, che il male c'è, è che senza però Darth Vader guerre stellari non varrebbe nulla. Guarda, attenzione, ci arrivano cacacce. Cacace è di Wrexham. Ma gioca di Wrexham, ma quel cacace lì liberato cacace già Serie A con l'Empoli. Questa è una soffiata che ci arriva dalla regia, potentissima regia. E un giorno faremo uno special sul calcio inglese, sulla geografia del calcio inglese, per raccontarvi delle cose tipo quelle che poi scoprisci scopriresti solo seguendo l'FIK, tipo il Milton Keynes. Milton Keynes è un esperimento di urbanistica, una città costruita ex novo in Inghilterra negli anni 60. Ma perché mi suona nella testa che cosa c'è a Milton Keynes? C'è la Jaguar, mi sa? No, credo... la Jaguar a Coventry. C'è la sede di, non mi ricordo che team di Formula 1. Bravissimo. C'è qualcosa con la Formula 1. Città laboratorio urbanistico costruita ex novo negli anni 60 per girarci in macchina. Cioè, è una gabbia di isolati con una rotonda tra un isolato e l'altro. È un posto incredibile, surreale, clamoroso. E non giocava la Premier. Questo è quello che abbiamo da riportarvi. Vabbè, va avanti l'Arsenal che batte il Portsmouth. Becca Malino invece, perché lì è il calendario che ha voluto così, una di quelle squadre che noi spesso citiamo come esempio. È la sede della Red Bull. Ok, sono andato a togliermi questa scimmia. Hai fatto bene. Segnaliamo che il Tottenham pesca l'Aston Villa ed esce. Lo United fa brutta figura per l'ennesima volta quest'anno. Attenzione, bisogna dare la scala. Perché se tu fai continuamente brutte figure, noi non possiamo permetterci il lusso di che brutta figura che ha fatto oggi. Perché ormai sono tipo 10 anni che fa, devi ridisegnare lo spazio-tempo intorno allo United. Sì, non fa una piega. Ormai è la normalità per lo United fare. Che brutta figura ha fatto in questo caso? È uscito contro chi? Contro qualche squadra minuscola? Contro il Brighton, che comunque ci sta. È dai tempi del Brighton di De Zerbi, esatto, che comunque il Brighton è un oggetto interessante, caso di studio della Premier e del calcio inglese in generale. Deve ancora giocare il Liverpool. È un anno in cui potrebbe fare brutta figura anche il Liverpool. E andiamo avanti, cambiamo piazza, sì, cambiamo sì, campionato. Andiamo via. Spagna, che ha il beneficio della nostra attenzione su più livelli, perché si è giocata una giornata piena di cose interessanti. Il Rayo Vallecano, per esempio, che ha vinto contro il Mallorca, mi sembra già un elemento suggestivo interessante. Purtroppo l'Osasuna va a perdere sul campo del Girona. Mentre invece a Getafe vince la Real Sociedad. Sotto gli occhi di tutti però c'è la finale di Supercoppa che vede un superclassico totale, il Barcellona contro il Real Madrid. Si gioca a Jeddah perché anche loro hanno fatto gli impicci con i petrodollari. Guarda che loro in quanto a impicci sono molto peggio di noi. Sono stati dei precursori. La partita è niente male, devo dire. Il fatto che si giocasse in contemporanea con Inter-Napoli, come lo vedi come prodotto d'esportazione? Anche loro gliel'hanno ammollata, devo dire. 3-2, insomma, 5 gol. Alla fine la spunta di Barça con una maglietta, lasciatemi dire, inutile. Sì, ma non ci stupisce. E non è neanche bella. Cioè, hanno fatto una cosa giusto per dire di aver fatto una maglia speciale. Brutta, vabbè, era giusto per tornare perché ci avevamo quasi dimenticato l'importanza dell'estetica, qua la risottolineiamo. E ti dico, io ho visto molto di una squadra in particolare spagnola, Bat de Giovanili. Ho guardato molto Athletic Bilbao Under 19 e comunico, per chi già non lo sapesse, che le Terre Basche, non contente di aver dato al mondo già un magnifico Oyarzabal della Real Sociedad, inutile che vi sto a raccontare chi è un eroe di questa generazione di calciatori spagnoli, ma ce n'è un altro sui 18 anni omonimo che si chiama Oyar, però scritto con la C e l'H, Chabal, ok, la pronuncia è similare però è scritto diversamente, e che giocava nella Real Sociedad quando era mignone, adesso che è tipo un ragazzino, però gioca nell'Athletic Bilbao, è passato da quell'altra società, insomma, di queste magnifiche terre basche, ed è lì leggiato numero 10, questo sinistro che canta tra un El Arbawi a sinistra e un Zaidani a centrocampo e un Selton Sanchez che però hanno già convocato in prima squadra il capitano di questa selezione qua. Vi dico che fortunatamente forse avremo un altro Yarzabal, speriamo. Bello, ci piace. Sulla finale di Supercoppa segnaliamo la bellezza del gol di Rafinha, ne fa due, l'ultimo, quello del definitivo 3-2, è da recuperare. Anche quello di Vinicius Junior non è affatto male. Ma siccome è di Vinicius Junior non ci piace allora, però, solo perché è antipatico lui. Però il parapiglia con Simeone è stato divertente, Un po' chiamato, un po', cioè nel senso non mi meraviglia neanche più. Riassunto, partita di campionato, non quella di Supercoppa. Esatto. passando nei pressi della panchina quando l'Athletic richiamava un rigore, Vinicius Junior va da Simeone a provocare dicendo dai che te lo danno un rigorino, non piangere che te lo danno. C'è il bue che dice cornuto all'asino. Simeone, siamo a questi livelli. Simeone cioè. Risponde guarda che Florentino licenzia anche te, ridi meno. È un bel momento. Gli ha detto davvero così, sì. Grande Diego. un bel momento di dialettica sportiva. Non posso dire grande Diego in questo caso. Ben giocata anche secondo me. Ben giocata. Cambiamo campionato, andiamo in Bundesliga dove c'è un accadimento di quelli che terapeutico violentissimo. Sì, 8-1 del Bayern contro il Wolfsburg. La notizia è che Kane ne fa solo uno. Da, ma non è un campione, non è più i dirigenti della Bundesliga, credo che sia a caso, comincino a pensare a qualcosa. No, non è un campionato serio. La nota creativa è che al 13esimo erano 1-1 ed entrambi i gol li aveva fatti il Wolfsburg, perché aveva fatto 8 gol e poi se l'era pareggiata. Ma questi ogni domenica infrangono qualche regola, 5-0, 7-1, 8-1, 6-0. Poi da lì in poi succede un casino, succede un casino. Che c'è da dire? Che è successo? È successo qualcosa in Germania interessante? A parte il nostro regista che sfoggia una magnifica maglia della nazionale, posso dire, bravo. Hai soldi ben spesi, bravo. L'hai vista la maglietta nazionale? Assolutamente imperdibile. Segnaliamo il 4-0 del Borussia Mönchengladbach, che ormai ha abbandonato le ambizioni per i piani alti, sì, contro l'Augusta. E segnaliamo un po' di pareggite qua e là, 3-3 tra l'Eintracht Francoforte e il Borussia Dortmund, 2-2 tra Heidenheim e Colonia con un gol in rovesciata molto bello fatto da un energumeno, recuperatelo, e 2-2 pareggio da squadra normale tra l'Union Berlino e il Mainz. Il campionato apertissimo? No, direi proprio di no, perché in 16 giornate fa 44 punti il Bayern, vuol dire che ha lasciato indietro veramente niente, clamoroso. C'è poco da raccontare, ti dico, guarda, è stato un weekend in cui, a parte la Samba di cui tra un attimo adesso andiamo a parlare bene, ho visto tanto giovanile, cioè, tipo c'è l'Asian Cup Under 23, c'è la mia fissazione per il calcio uzbeko che conferma di nuovo di essere una di quelle situazioni calcistiche mondiali da tenere sotto d'occhio, perché questi hanno un settore giovanile veramente clamoroso che comincia anche ad alzare metalli. Questo Ibrahimov ha 20 anni, un energumero sul centro-destra del centrocampo, può far pure l'esterno, uno di quelli che già ti ruba l'occhio, ok, capito? Niente male, devi darci un'occhiata ogni tanto alla FK, perché ci vedi giocatori interessanti anche in squadre dove non ti aspetti, tipo il Vietnam, la Cina, il Libano, cioè ogni tanto riesci a trovare, non ti sto dicendo i futuri Cruyff, i futuri di Maria, no, però la Cina comincia a produrre, per esempio c'hanno questo Lin Hao, se non mi sbaglio, che sembra essere un portierino decente, cosa inimmaginabile fino anche solo a 5 anni fa, ok? E quindi è sempre molto, questo è come intendo il calcio internazionale. Quando devi cercare qualche stimolo, vatti a cercare qualche bel torneo giovanile che c'è sempre qualcosa di interessante da notare. Anche perché sennò ti devi stare a guardare cosa? La Bundesliga 8-1, 4-0, campionato finito prima di Natale. Quest'anno è diventata interessante la Ligue 1 in Francia. Molto bravo Fio. In testa della classifica non c'è il Paris Saint-Germain. E non è detto che ci arrivi poi alla fine, perché sai, dici, vabbè, alla fine arrivano loro, e non è detto. Comanda ancora il Lens in campionato, questa giornata non si giocava perché c'era la Coppa, il Lens ha già giocato, ha vinto 3-0 comodo, deve ancora giocare il PSG. Della Liga mi piace tantissimo sottolineare il debutto debordante di Hendrik, che è passato dal Real Madrid in prestito all'Olympique di Lione ed è entrato come sa fare lui, cioè con due gol d'autore, soprattutto il secondo in cui c'era la compartecipazione del portiere, però lui fa un gol che lo aveva già reso famoso quando ancora faceva Pio Pio, ed è una cosa che mi piace molto vedere, perché questo è un giocatore secondo me speciale, che però da quello che avevo capito sta attraversando un periodo di crescita, soprattutto nella mansarda, diciamo così, nella capoccia. Velicatucci, ricordiamo che è un ragazzino, però questo a calcio è forte veramente tanto. Quindi la Liga ne guadagna anche quest'altro tassello tecnico che innalza ancora. È il campionato di versione dell'anno sicuro, anche perché era partita sotto presagio scuro, cioè non erano rimasti senza copertura televisiva, se non mi sbaglio. Sì, esatto. C'è una sorta di autogestione dei diritti TV. A me questa cosa mi ha fatto impazzire, perché sei in un momento di difficoltà, o fai come noi, cioè facciamo schifo, oppure ti ingegni. ok, no, mi avete lasciato senza copertura, e allora io faccio da solo. E allora io ti propongo un campionato in cui il Lens è primo, in cui il Paris Saint Germain è campione di tutto, se la deve guadagnare, in cui produco giovani a palla, in cui c'è lo Strasburgo che è la squadra con l'età media più bassa penso del mondo, d'Europa, e dà spettacolo. Brutta la cessione dell'allenatore al Chelsea poco dopo le feste in diretta live e così, però le regole glielo permettono, ok. Però questo per dire che i francesi hanno saputo reagire in modo diametralmente opposto al nostro di fronte a una crisi monetaria del loro sistema calcio, ok? Ho cercato di farla molto molto breve, però complimenti a loro perché hanno un gran bel campionato a cui aggiungono pure Hendrik, che porta veramente un alzamento tecnico enorme, e si godono questo gran bel campionato col PSG, che però porta a casa la Supercoppa, se non sbaglio, no? Sì, sì, esatto, sì, sì. Esatto. 2-2 col Marsiglia, poi la vincono a rigori. Anche questo ti fa capire, c'è un PSG che, di cui tutti abbiamo decantato le lodi, tutti meritate, e però non domina il suo campionato. Come già il Mondiale per Club aveva dimostrato, è comunque una squadra di mortali. Esatto, diciamo, cioè, esatto, esatto. Non ci sono divinità in campo, non ci sono più. Esatto, però bravi loro, hanno realizzato un gran bel campionato. Parlando di campionato di esteri che di solito trascuriamo, va sottolineato che Farioli rinnova fino al 2028 col Porto, con cui sta macinando record. Sta ammazzando il campionato. Ora, clamorosamente. Succede, sì, spesso che il campionato portoghese venga ucciso da una squadra, però lui sta proprio trattando tutti i record già alti precedenti, e quindi questi tra gli allenatori italiani emergenti è quello che ridà pure una certa figura a campionato che ha perso l'anno scorso all'ultimo istante in Olanda con l'Ajax, perché prima e dopo Farioli l'Ajax comunque fa cagare. Sì, veniva da una serie. E c'è tornata dopo, dopo c'è tornata. Quindi è un allenatore che comincia, insomma, a far parlare di sé in modo pesante. Vediamo se porta a casa qualche alloro. Vediamo. Coppa d'Africa. Coppa bella, d'Africa. Bella, fin qua bella, molto bella. Bella. Purtroppo l'abbiamo seguita pochissimo perché non c'eravamo. Riuscito a dare un'occhiata un po' al Marocco, che è ovviamente la mia squadra preferita ormai da quel mondiale. Il mondiale clamoroso. E ti dico che loro avanzano. Credo che abbiano vinto la semifinale. C'è un Brahim Diaz in formissima, ma c'è qualità in ogni settore in quella squadra. E quello che dovrebbe spaventare gli altri è che questi, le future prossima, ma anche le prossime due generazioni di giocatori del Marocco, forse sono più forti di questi. Beh, è il movimento in crescita, che capito, sono già di fortissimi, movimento. Che sono, sì, già, sì, fortissimi. Vediamo, vediamo. Ci sono le quattro semifinaliste. Vai. E direi che non ci sono grandi sorprese. Da un lato del tabellone Senegal ed Egitto, dall'altro Nigeria e Marocco. Quelle che più o meno. I percorsi delle quattro sono abbastanza lineari, ecco, forse più la Nigeria per questioni che vanno oltre il risultato delle partite giocate, la lite in campo tra Osimhen e Lukman, ridicola, che racconta. Comunque di loro hanno un potenziale offensivo. Potenziale offensivo devastante, offensivo, ragazzi, limiti caratteriali negli uomini di punta abbastanza palesi, sì, che Osimhen... Cioè, è gente che si accende, è gente che si accende facile. Sì, ma si accende senza motivo. Cioè, in una problema, partita in cui sei in controllo e ti incazzi con un tuo compagno di squadra e chiedi il cambio per smettere di litigare, hai veramente dei limiti nello stare con gli altri che ti impediranno di raccogliere quello che poi magari avresti dovuto raccogliere. Osimhen, coccia un po' calda, lo sappiamo da sempre, però è anche, un giocatore che è stato capace di vincere lo scudetto con il Lille e con il Napoli, che per dare la scala valgono 5 scudetti con una qualsiasi squadra a strisce in Italia, come peso specifico, dico, intendo, no? Cioè, voglio dire, è un giocatore che anche col Galatasaray, non so se ha vinto, credo che abbia vinto con almeno un trofeo, sono quasi certo l'abbia vinto. E comunque, ripeto, la Nigeria c'ha un potenziale offensivo davvero clamoroso. Il Marocco è più bello tutto, perché c'ha già dalla fase difensiva, più... è un po' più squadra, però... Coppa d'Africa che offre, al di là del fatto che è il torneo in cui in assoluto il design, lo stile delle divise tocca apici altissimi, è proprio il torneo che spinge le divise più bello, perlomeno le più coraggiose, le più fantasiose, cioè, non so se l'avete visto anche quelle di quest'anno, alcune tipo quella del Camerun, anche quella del Mali molto bella, è un torneo che fa bene agli occhi, sia per il calcio espresso che per il calcio vestito, insomma, per tutte e due. E vediamoci queste due semifinali, diciamo l'Egitto è quello sulla carta sfavorito e la Nigeria forse è quella che ha il favore dei bookmakers, anzi no, senza forse, è quella che ha il favore dei bookmakers, ma vediamo, molto molto molto interessante. Visto che è calcio internazionale, cosa sappiamo del campionato più seguito dagli italiani? Che cosa sappiamo? Sappiamo che non si vince più, è un altro 0-0 anche ieri, questa volta in casa contro il Gubbio, che tra l'altro schierava due ex Di Massimo e Fazzi, che insomma, fecero anche bene da noi. E che ti devo dire, siamo ancora con questo 3-5-2 che però è debole in almeno 2-3 elementi dello scacchiere, perché con Ate ieri era più un 3-4-3 sembrava, però ha provato a tornare sull'esterno ma proprio non incide. E niente, come al solito riusciamo a creare quelle 3-4 palle gol, ma non c'è verso di fare gol. Si festeggia il ritorno in prestito secco dall'Atalanta di Leonardo, che, a cui noi lo avevamo ceduto per una buona cifra, per 400-500 mila euro, con la squadra ancora in Serie D. Sono molto contento del suo ritorno, anche se non amo i ritorni. E però ieri quasi la bolla, quasi riesce a farci vincere appena entrato. E quali sono i lati positivi? I lati positivi sono che si vede qua e là qualcosa in cui credere per il futuro, e cioè un centrocampo con Piccoli, il supereroe Candellori, e per me il vero capitano di questa squadra, e Bongelli a centrocampo, con magari augurandosi una crescita un po' più veloce e forte di Tosi, ti assicura un centrocampo per il futuro molto molto buono. Ma si sta parlando sempre per il futuro, che vuol dire che tu devi avere pazienza adesso, tenere duro, cercare di salvarti il più velocemente possibile. Siamo a più uno sulla zona play-out, ci dobbiamo dimenticare per un attimo della zona play-off, e siamo sempre lì, Fio, giochi bene alla fine dentro la cavia, ma non riesci a svoltare. Servirebbe una vittoria anche fortunata, anche un'autorete, bruttissimo, un gollonzo, quello che cazzo è. È una situazione che conosco, un bello sghetto. Posso dire, ieri dopo un paio di prestazioni un po' basse anche loro, ieri prestazione della Curva Nord incredibile, non hanno smesso mai di cantare, davvero spettacolari. Mi piace ricordare che siamo secondi nel nostro girone per la media spettatori portati allo stadio, intorno a 6.000, quasi 7.000. Il problema è che davanti ci stanno quegli altri, davanti a noi ci stanno soltanto quelli lì, quelli vestiti di bianco nero di vicino a noi. Però sono questi, ecco, i motivi di soddisfazione. Io continuo a vedere rosso per il futuro, se ci salviamo quest'anno, se tutto va bene quest'anno. Vediamo un altro 0-0. No, I lontani cugini dell'entroterra, che in questo momento sono terzi, con buon margine, perché hanno 5 punti sulla quarta e 5 punti dalla seconda, che intanto è diventato il Ravenna, che ne ha persa una, ne ha pareggiato un'altra, e l'Arezzo non accenna a fermarsi. Marca 46 punti più 4 sul Ravenna che insegue. Direi che questa parte di calcio internazionale è andata abbastanza rotonda. Adesso mandiamo la pubblicità e ci sentiamo dopo. Bologna con la neve per terra, in alcune zone periferiche e remote, fa proprio quell'ambientazione tipo Fargo dei fratelli Coen. Cioè, sai, quell'America profonda, proprio invernale, con l'inverno tutto l'anno, livida. È proprio il clima da Super Bowl. Sì, è quel periodo dell'anno NFL. È quel periodo dell'anno. Perché l'NBA, che è indoor, non subisce gli effetti dell'ambiente circostante. Esattamente, le luci, il freddo, li vedi sta gente lì in tribuna che si sta mangiando un intero maiale con l'aria che esce dalla bocca congelata. Già di mezzo litro di soda ogni morso al panino. Un modello di sviluppo che non siamo riusciti a perseguire ormai. Peccato, siamo arrivati lunghi, è andata così. Peccato. Chissà, magari era non lo so, magari era meglio fare altre cose, chissà, ormai è andata così. Però ogni tanto, oltre oceano, un occhio bisogna buttarglielo, specialmente in questa parte dell'anno, quando il football americano arriva in quel pezzo di stagione in cui allora sì che ne vale la pena un bel po'. I tuoi Bills riescono alla fine di una partita sudatissima contro Jacksonville Jaguars a qualificarsi per la prima volta. Josh Allen vince una partita nei playoff e quindi si qualifica, si mangia la wild card e va ai playoff diretti per la prima volta, anche perché avevano sempre beccato i Chiefs di Mahomes in partite straordinarie in cui lui, Josh Allen, aveva sempre fatto il supereroe, tornando però sempre a casa. Questa volta invece ci riescono anche i 49ers, che mandano a casa i campioni in carica. E anche qui, nell'annata in cui forse meno mi aspettavo in cui i miei Niners se potessero arrivare in fondo, vatti a vedere che invece la fine è l'annata buona per cercare un nuovo assalto al Super Bowl. Sono i playoff della NFL che sono molto diverse dalle partite di regular season, forse ancora di più dell'abisso che si crea in NBA tra la regular season e la, insomma, e la situazione playoff. In NFL vedi proprio lo stacco, vedi le difese che vanno proprio su tre piani diversi, non di uno, non due, ma salgono proprio di tre piani. Sono belle partite, anche i Rams fanno il loro dovere, anche qui in volata contro dei fantastici Carolina Panthers, ma alla fine la loro prima stagione rilevante da un bel po', sì, Carolina, per Carolina, perché invece i Rams partivano con, insomma, già, insomma, abbastanza quotato, una partita meravigliosa, da quello che mi dicono non sono riuscito a vedere, c'è troppe cose da guardare. E quindi che vi devo dire, se siete come noi pazzi per questo sport di pazzi, perché si tratta di sport di pazzi, è bello rivedervi tutti, non so come dire, bello, vi abbracciamo tutti, perché è proprio il periodo nostro questo qui per i tifosi dell'NFL, e quindi avanzano bene o male quelle che ci aspettavamo, non ci sono grossi upset, ci aspettavamo forse San Francisco contro il fila, non era così, insomma, sicuro che, insomma, che ce la potessero fare. Quella, la vera sorpresa potrebbe essere loro, anche se i Niners erano in enorme crescita, e soprattutto a livello difensivo quest'anno con il ritorno di Saleh. Che vi devo dire, raga, è bello sto periodo dell'anno, è molto bello. Manca l'ultimo ottavo di finale tra gli Steelers di Pittsburgh e Texas Houston, cioè per... la miglior difesa dell'anno, quella di Texas e di Houston, contro Aaron Rodgers, che è ancora vivo e lotta con noi, questa volta con la maglia degli Steelers, squadra leggendaria di football americano, che, vi ripeto, se non siete appassionato, siatelo, si dice così, insomma, diventate appassionati di questo meraviglioso sport, perché l'amico di Fiocco, Josh Allen, promette battaglia. Di là ci sono i miei Niners, nel mezzo un altro manipolo di supereroi, è molto bella la NFL. Beh, c'è anche Seattle, che da stare attentissimi a sul giro. Seattle e Houston, che hanno due difese veramente soprannaturali, e succede molto spesso che vinca la difesa, soprattutto in NFL. È proprio bello, è proprio bello, è proprio bella la NFL. Strano che nei tentativi di sfondare su nuovi mercati non abbiano ancora apparecchiato una gara in Italia. In Spagna l'hanno fatto, vanno fortissimo in Inghilterra, vanno molto spesso, almeno 3-4 partite all'anno in Inghilterra, tra gli haters del rugby, probabilmente molto probabilmente sì, ed è bello per quello. E non so, dovrebbero andare abbastanza decentemente anche in Germania, dove invece è uno sport molto molto praticato, insomma, il football americano. Il sogno di vederne una qua non ci penso nemmeno, cioè è talmente irrealizzabile che nemmeno mi faccio l'idea che un giorno si potesse sviluppare la fantasia di portare, non riusciamo a organizzare la Serie A in mezzo alla Serie C, no, dai, cioè, è proprio, sono proprio inavvicinabili le due parole, organizzare in Italia NFL, sono proprio, non puoi unire nello stesso discorso, non so come dire. Organizzazione, cioè, no, vabbè, no. Per una gara secca, uno spettacolo puro in sé, magari sì. Se si trattasse di organizzare un campionato, beh, lì ho i miei dubbi. Basta guardare la Serie A di basket. Oh. Che da un lato, quando il campo è pieno di atleti e il parquet fa rimbalzare il pallone, regala anche delle gradevolissime gare, come per esempio la vittoria in rimonta della Virtus contro Venezia. Toccava dirlo e lo abbiamo detto. In realtà tiene banco la questione Trapani. Ora, Gesù bambino, questo qua, raga, ma Antonini di no, Lula, ma no, cioè, dai, no. Madonna, per evitare di incorrere in problemi legali dobbiamo parlare di Antonio Valerini. Chi cazzo è Antonio Valerini? Il gemello buono di Valerio Antonini. Antonio Valerini, dobbiamo parlare di lui. Continua la surreale situazione di Trapani Basket. Ma che surreale, questo l'abbiamo schivato noi, raga, ne abbiamo parlato qua in questa radio di questo criminale, ne abbiamo parlato quando voleva prendere la Samb e, ringraziare il cielo, la mia città gli ha fatto trovare degli striscioni molto poco simpatici in zona Porto, perché è andata letteralmente così, in cui lo invitavamo a nemmeno nominare il nome della nostra città, perché si sapeva essere un altro di quelli che te fosse una squadra, un altro di quei criminali che non so quali sono i loro piani, ma decidono che gli serve un po' di sport washing per curare le loro situazioni e poi ti lasciano in merda. Lo so, ma qui la situazione, cioè, è davvero... veramente ridico, perché poi prende pure in giro la gente. Cioè, è questo il problema, perché sta continuando a fare una sceneggiata incredibile nel mondo del basket. Insomma. Sì, in questo momento Trapani Sharks ha una penalità complessiva di meno 10, ma per pur di continuare a schierare la squadra va a perderle simulando la partita per pochi minuti. Costringendo dei ragazzini del tutto innocenti in queste situazioni a giocare 3 minuti e poi insomma chiudere lì la partita, dai, su. Lo ha fatto anche in Europa, è andato in Bulgaria facendo lo stesso spettacolo per non incappare in una multa economica pesante nell'immediato e di fatto commutarla in probabili punti di penalizzazione. In realtà in Champions League è stato radiato dalla competizione il Trapani, quindi non ha fatto un buon lavoro, ecco, con quella mossa lì. E spiace vedere questi innamorati del basket, perché uno che fa il giocatore di basket di lavoro tra l'altro, in una città meravigliosa dove si sta benissimo. Ci ho lasciato un pezzettino di cuore, davvero bella. Che tra l'altro ha a che fare con Antonini sia sul fronte basket che su quello calcio. E quindi uno sportivo che vive a Trapani, che tifa i colori della sua città, in questo momento è in grande, grande difficoltà. L'ultimo show così a beneficio dei malinconici spettatori è stato contro Trento in casa. E alla fine 11-26 scritto sul tabellino, ma di fatto non è stata una partita di basket ed è un dispiacere. Se vogliamo dire dispiaceri, ricordiamo, segnaliamo che la Fortitudo ha perso a Verona. Giusto, così, perché parliamo di dispiacere. Toccava dirlo, anche questo, toccava dirlo. Persa a Verona, una partita in cui emergono poi tutti i limiti della squadra che abbiamo imparato a conoscere e a soffrire, tra virgolette. Verona, squadra attrezzata per l'eventualità di andare su di prima in un campionato di A2 che è veramente complicatissimo, e in questo momento comunque la vetta ce l'ha per gli scontri diretti Rimini, pur essendo a pari punti con Pesaro. Decima in questo momento la Fortitudo, sempre per il conto degli scontri diretti, e sarebbe in quel bracket di playoff in cui si gioca una partita in più che sarebbe meglio evitare, così per dire, visto che è lunga, lunga, che non finisce mai. È proprio un'invernata, Fio, è proprio un'invernata difficile. Un'invernata è una bellissima definizione. Adesso però sentiamo un rombo all'orizzonte, ma non si sente perché è un rombo moderno, troppo moderno. È un nuovo rombo di motori, un nuovo rombo di power unit, perché ormai quando parliamo di Formula 1 con il nostro Andrea Gozza, brum brum, che romba ancora come, cioè, una volta la Formula 1 ancora non è, diciamo, il campione. Ecco, sentiamo il rombo. Sì. Un rombo da simulatore. Questa è l'Audi di Hülkenberg o di Bortoleto, che sta provando a Barcellona. Ed è, diciamo, una delle poche cose. Un audio abbiamo. Ci sono delle foto che giravano, che erano dei fake fatti con intelligenza artificiale. Adesso pare che ci sia anche una qualche foto ufficiale sgranata della Audi che sta provando il nuovo assetto, il nuovo motore con i cambiamenti che ci saranno nel campionato 2026. La cosa, tanto un sacco di polemiche riguardo a quelle che possono essere le interpretazioni del regolamento, il nuovo regolamento della Formula 1 che prevede una serie di cambiamenti, l'abbiamo già detto, il motore sarà metà elettrico, metà a combustione, però sembra che Red Bull, ma soprattutto Mercedes, abbiano trovato una gabola di interpretazione che è proprio quello che forse anche concesso rispetto al fatto che c'è un regolamento. Se io trovo l'interpretazione sul regolamento che va a mio favore, può essere anche giusto che ci sia, però ci sono delle contestazioni perché pare che abbiano utilizzato delle leghe, non so se per i pistoni, per il cilindro, che permetterebbero, perché certe misurazioni vengono fatte a motore freddo, a motore caldo aumenterebbe la compressione e quindi è un aumento di fino anche 15 cavalli a motore caldo di questa lega, che permetterebbe una maggiore compressione quando il motore è caldo. E quindi so che ci sarà anche una riunione in FIA per discutere probabilmente di questo, ma stiamo parlando solo di voci. E poi sappiamo che la Ferrari invece ha fatto una scelta ben precisa, che sembra un po' il ritorno al passato, ma la testata della Ferrari sarà in acciaio, una lega d'acciaio che è più pesante rispetto alle leghe che si utilizzano per i motori, ma però anche questo potrebbe essere, diciamo, potrebbe dare dei vantaggi in termini di durata del motore, cioè di affidabilità. Ecco, non so se tu hai accolto anche tu qualche voce che sta girando rispetto a quello che sarà il nuovo campionato di Formula 1. Beh, è affascinante che ci siano delle differenze tecniche più marcate che gli anni scorsi. Sul discorso delle leghe, ricordo che molti anni fa, ai tempi della McLaren Mercedes di Häkkinen e Coulthard, ci fu a un certo punto un'epidemia di bancate che esplodevano e di fumo azzurro dalle fiancate delle McLaren Mercedes, e quello ai suoi tempi si disse era dovuto all'alta concentrazione di berillio, che è un cugino matto dell'alluminio, nella lega delle testate dei banchi Mercedes che giravano su quelle macchine, che a un certo punto su alcuni tracciati specifici non raffreddavano, erano talmente dimensionati al pelo come masse radianti per raffreddarsi, che in alcuni circuiti in cui c'è una prevalenza di curve da un lato, nella parte interna raffreddavano meno quel poco che bastava per farli giocare. Si gioca tutto su delle misure veramente, veramente minime. Comunque questa settimana iniziano le presentazioni delle monoposto statiche, non si potranno ancora vedere girare in chiaro, diciamo, perché i test... C'è tutto un segreto, così forse rende più diciamo affascinante. Sì, mi immagino quelle cose alla Enzo Ferrari 955, il cronometrista imboscato su un albero. Sì. Che va a vedere le prove degli altri. Sì, sì, può essere che ci siano anche queste. C'è da dire che attualmente le prove che stanno facendo, e in questo momento l'Audi, parliamo di quella, sono anche per testare alcune, diciamo, non sono macchine definitive anche nell'aerodinamica, quindi oltretutto non hanno gli sponsor, sono macchine scure, no? Dal punto di vista del look. Io ho sentito però adesso, al di là di tutte queste polemiche sulle leghe e sul fatto dell'aumento di compressione, sulla Ferrari non c'è nessuna polemica, nel senso semplicemente qualcuno si domanda se può essere la scelta giusta perché appesantisce il motore, c'è un problema di baricentri che sono diversi, insomma una serie di problematiche più tecniche che però hanno sia gli effetti negativi che quelli positivi, e anche nel caso dell'aumento di compressione può esserci il problema che c'è stato, che hai citato tu prima, nel passato. E ho trovato dei video di Cronosport, che è una rubrica che trovate anche su YouTube della RAI. Come sappiamo la RAI non è che segue la Formula 1, no? Però praticamente ci sono una serie di puntate che presentano le novità del 2026 su quelle che sono le novità del regolamento e di come sono fatte le nuove monoposto. Una cosa che ho notato in questi, diciamo, illustrazioni, che oltretutto vedono anche tecnici Ferrari e i tecnici della Pirelli che parlano, perché anche sulle gomme che sono diverse da quelle dello scorso anno ci sono state tutta una serie di considerazioni da fare perché possano reggere alle corse, e una cosa che è venuta fuori è che queste macchine saranno molto più dipendenti dal box che dal pilota. Non so se tu hai sentito, cioè il fatto che mi ha sorpreso è che Cronosport, se è una rubrica della RAI, sicuramente non stiamo parlando del youtuber appassionato di Formula 1 che casomai corre dietro a delle voci che casomai non sono fondate, ecco. Il fatto che in questa rubrica si mettesse un po' l'accento su questo aspetto mi ha fatto pensare, perché cosa vuol dire? Che non vedremo più il magico Verstappen inventarsi delle cose, ma che sarà il box a decidere determinate prestazioni dell'auto, a tutte queste anche il doppio flap mobile, no? Che che influenza avrà su queste auto? Insomma, ci sono una serie di domande. Certo che da un po' che si dice che il pilota, diciamo, conta meno, no? Il fatto che le auto sono seguite da remoto, dai box, che si hanno tutti i dati in contemporanea, che il box potrebbe anche decidere di togliere dei cavalli al motore mentre il pilota ignaro sta correndo e trovarsi con una macchina leggermente rallentata, perché casomai c'è un problema, no? C'è una spia dell'olio che lampeggia, ecco. La vedono solo sul cruscotto ai box. Esatto. Ecco, quindi questo del fatto che non siamo più ai tempi di Ascari, ecco, sicuramente. Però se c'è un'implementazione di questi controlli da box, viene a pensare che poi alla fine i piloti hanno sempre meno, un pochino meno, diciamo, della loro bravura da mettere in pista. Io sono molto curioso di vedere quale sarà la differenza tra i tempi di queste agli albori della loro avventura tecnica e i tempi delle vecchie monoposto alla fine del ciclo con quel regolamento lì. Non mi stupirebbe se queste girassero abbastanza più piano all'inizio. Vedremo, anche perché poi può essere che inizialmente girino più piano, ma che poi vi siano delle evoluzioni, perché già si parla che nel 2027 ci saranno delle evoluzioni su queste monoposto, tenendo conto delle problematiche comunque è chiaro, è normale che ci sia un'evoluzione, no? Le evoluzioni sono continue, quindi vedremo anche questi aspetti. Quindi ne parliamo a marzo, mi sembra che si riprenda, e se non ci sono altre voci di corridoio o novità, mi sa che ne torneremo a parlare appunto quando ripartirà la Formula 1. E intanto iniziano le presentazioni. La prima sarà quella della Red Bull il 15 gennaio, poi fino al 9 febbraio andranno avanti a presentarle. Intanto a fine mese, tra il 26 e il 30, gireranno ossessivamente a Barcellona, sempre a porte chiuse. Certo. E vediamo cosa. Intanto riflettevo su questa cosa abbastanza divertente che riguarda a Audi, impariamo a chiamarla Audi. Il team Sauber negli anni, dopo essere stato Sauber Petronas, vari eventuali, è stato BMW, poi è stato Alfa e adesso diventa Audi. Cioè sì, ha portato i colori di grandi glorie della storia dell'automobilismo, così, alternandone l'uno e l'altro. Sì, è curioso, diciamo, questa. Sono abbastanza liberi forse di scegliere, no? Ma anche il fatto che poi ci abbiamo dei team che hanno il nome di una grande squadra come la Cadillac, che poi casomai c'hanno un motore Ferrari. Sì, affascinante anche la gestione del brand. Lì c'è la questione Andretti, che per poter entrare nel circus è stato costretto a scendere a patti con le superpotenze del mondo dell'automobile. E parliamo di Andretti, che come team in tutte le competizioni americane. Ruote coperte e scoperte, è sempre stato un grande riferimento. Vabbè, affascinante questa stagione che inizierà a marzo. Beh, avremo tempo di prendere le misure con le cose nuove e di ricordarci che, insomma, gli equilibri di quest'anno ha raccontato che la Ferrari si deve dare una mossa. E forse il cambio, lo sparigliamento. Vedremo, chissà, speriamo. Insomma, lo sparigliamento delle carte è quello che ci vuole in questi casi per recuperare. Bene, siamo in chiusura perché mi sa che fra poco c'è il notiziario, il nostro regista ha un minuto, meno, e niente, per quello che mi riguarda ci rivediamo a marzo, se non ci sono eventuali novità, insomma. Noi, intanto possiamo parlare un attimo al volo di MotoGP, sono incominciati i test, nonostante qui da noi faccia quel freddo lì. A Valencia non hanno il parabrezza, hanno proprio quello basso. E segnaliamo che una delle più belle sorprese di questa stagione di MotoGP, Fermín Aldeguer, durante una sessione di allenamento si è rotto il femore, e quindi diciamo che tutta la parte di preparazione salta completamente, e chissà quando sarà performante per il campionato che comunque inizia a primavera. Stiamo parlando di due ruote, siamo qua, cioè io sto voglio vedere Acosta, cioè voglio vedere se fa quel salto lì, quel peperino spagnolo, se riesce a fare quel salto nelle sue capacità nella motocicletta. Lui corre con KTM, se non mi sbaglio, giusto? Ok, non è che io non sono un hater di Marquez, È che però quando uno vince tanto, dopo alla fine comincia a essere un po' stanchino. Quindi io sono qui che aspetto di vedere se George Acosta ce la fa. Un prospetto futuribile contro il campione in carica, in attività. Affascinante questa suggestione. È stata affascinante anche questa puntata di Caffè Paglia. Oh, difficilissima. Sì, è successa qualunque cosa. Ci riascoltiamo settimana prossima e bella, ragazzi. Bella.